Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, Luca Tremolare al microfono, sono le 16.33, Luca Dello Iacovo con lui, buongiorno. Buongiorno. Allora, la domanda a cui nessun giornalista di tecnologia e non sa rispondere è: quanti cavolo di server ha Google, possiede Google, dove sono dislocati i suoi data center, quanti computer ha sparsi in tutto il mondo? Nessuno lo sa. È uno dei grandi misteri e qualunque giornalista vorrebbe avere la risposta per avere la copertina. Anche perché attraverso questi server passano pezzi della nostra vita, numeri finanziari, date, informazione, probabilmente qualcuno dice il nostro futuro. Fatto sta che c'è bisogno di renderli sempre più efficienti questi data center, raffreddarli, renderli un pezzo del cambiamento della nostro genere umano. La sto rendendo un po' troppo grande. No, anche perché il consumo di energia cresce e questo consumo è legato alle emissioni di anidride carbonica, nel senso che consumando energia, questa energia può essere contata in termini di anidride carbonica emessa. Infatti questa è la seconda puntata di tre che si occupano di inquinamento e ambiente. Oggi ci occupiamo di informatica e prima le news. Donne in bikini cancellate dall'Apple Store. L'azienda di Cupertino ha eliminato dal suo negozio su internet molte applicazioni con immagini di nudi femminili. La scorsa settimana un blog californiano aveva scoperto 15 software per iPhone definiti oltraggiosi. In poche ore sul web sono aumentate le proteste e le critiche. L'Apple ha deciso di rimuovere le applicazioni contestate. Continua il braccio di ferro tra Google e la Cina. Gli investigatori sono sulle tracce dei pirati informatici che hanno colpito 33 aziende negli Stati Uniti. Gli attacchi sono riconducibili a hacker di origine asiatica, ma gli esperti di sicurezza hanno ristretto la lista dei sospettati. Le tecniche utilizzate per il furto di dati fanno pensare a criminali cinesi. Il team di professionisti informatici avrebbe colpito più volte negli ultimi 2 anni, specializzandosi in obiettivi aziendali. Passiamo all'ecologia. Il Giappone non ritira le baleniere dall'Antartico. Secondo il primo ministro australiano Kevin Rudd, Tokyo non rispetta i trattati internazionali e supera la soglia consentita per la pesca dei cetacei. La cattura di balene è vietata dal 1986. Secondo gli ambientalisti, le navi giapponesi arrivano nelle acque dell'Antartico mascherate da missioni scientifiche. Al ritorno, la carne delle balene viene venduta in ristoranti e mercati. Tra l'altro l'Apple Store, il negozio della Apple, si sta proprio discutendo in questo momento in rete col fatto che ha tolto 5.000 pasta, applicazioni vagamente a luce rossa, erotiche e così, sta diventando proprio un esempio di vita retta su internet. Sì, un po' puritani. Un po' quaqueri, però vabbè, comunque loro hanno il diritto di fare quello che vogliono nel loro negozio, per cui guai. Ma torniamo al centro, al centro della puntata. Si parla di server e di informatica. Abbiamo qui con noi Paolo Cremonesi, professore al Politecnico di Milano, che insomma lui ha studiato un software per simulare diciamo la resa, l'efficienza dei database, dei data center. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo, non l'ho fatto da solo questo lavoro, l'abbiamo fatto oltre al Politecnico di Milano con un pool di aziende. Le volevo citare Beta, sì. 80, Enter, Neptuni. Per cui insomma una squadra di softwareisti. Che perché costruire un programma capace di simulare l'efficienza dei data center? Ma perché, diciamo, ci sono dei dati che mostrano come almeno il 2% dell'emissione globale di anidride carbonica negli ultimi anni sia dovuta ai data center. Ed è prevista in crescita questa percentuale, che a noi sembra piccola. Noi nella puntata di venerdì avevamo visto che il 25% delle emissioni totali erano legate al trasporto, nel trasporto c'è dentro sia il battello a vapore che il trasporto su gomma. Questo 2% qui forse è la voce con una crescita in prospettiva più alta. Sì, infatti i dati del 2% sono dati del 2007, ma i trend dicono che si dovrebbe raggiungere entro la fine dell'anno il 10% di emissione di CO2 per i data center. Quindi sta diventando importante. Per avere una parziale risposta al perché sta diventando sempre più importante l'informatico, sempre più centrale in termini di inquinamento, sentiamo la scheda di Luca Dello Jacopo. Gli aeroplani in volo e le conversazioni dal cellulare hanno un aspetto in comune. Contribuiscono entrambi al riscaldamento climatico. Il traffico aereo e le telecomunicazioni apportano ognuno il 2% alle emissioni globali di anidride carbonica. Ma il consumo di energia di computer, telefonini e server è destinato a crescere rapidamente. La voce principale sono i data center. Simili a grandi biblioteche, al posto dei libri ospitano i server, gestiscono il traffico di informazioni su internet e nelle reti locali. E secondo le stime di McKinsey consumano il 40% dell'energia allo scopo di raffreddare gli impianti. Ma la scelta degli interventi per ridurre gli sprechi è complessa. Il progetto EnergyHIT del Politecnico di Milano ha proprio l'obiettivo di studiare le configurazioni più efficienti in grado di risparmiare energia. I ricercatori utilizzano un software per simulare differenti modalità di consumi. Si tratta di un'iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia e sviluppata in collaborazione con il consorzio Neptuni, Enter e il gruppo Beta 80. La conclusione del progetto è prevista per il prossimo luglio. Allora, innanzitutto, come si fa a risparmiare energia dai data? Cioè, come costruire, cosa si spostano i computer da una parte all'altra dell'edificio, si stacca la corrente, si chiude lo schermo? No, non immagino. Un ventilatore, magari. Un ventilatore ogni tanto. Perché, insomma, il tema qual è? Che queste macchine scaldano come delle stufe. Assolutamente. E scaldando come delle stufe. Come delle stufe, il problema è che rischiano anche di andare in corto, insomma. Sì, sì, diciamo che un computer, un server lavora bene se la temperatura ambientale non supera i 27 gradi. E siccome il computer è una stufa, scalda veramente tanto, una grossa fetta dell'energia va proprio per raffreddare queste sale dati, per cui ci possono essere delle soluzioni innovative che qualcuno sta prospettando, tipo costruire i data center al nord piuttosto che vicino al mare, dove ho tanta acqua a disposizione per poter raffreddare il data center. Soluzioni meno veneristiche, ma comunque abbastanza efficaci, che dovrebbero prevedere quello di disegnare, disporre i server all'interno del data center in maniera furba, in modo tale che il calore si dissipi il più naturalmente possibile, fino a soluzioni che prevedono ad esempio di spegnere alcuni server nelle ore in cui non sono utilizzate. Quindi, che so, una banca ad esempio, che la notte ha un traffico di transazioni minore, potrebbe decidere di spegnere alcuni dei server la notte, e risparmiando in questo modo molta energia. È ovvio che questo richiede la possibilità di automatizzare tutta una serie di attività di spegnimento e di riaccensione dei server sulla base delle richieste degli utenti. Sì, tra l'altro il tema dei server, dei data center, è estremamente centrale anche perché sta modificando il paesaggio. Cioè, il fatto che noi abbiamo iniziato scherzando dicendo quanti server ha Google, lei lo sa tra l'altro. No, è un dato che Google mantiene molto ben segreto. Esatto, perché lo mantiene segreto? Anche perché, per esempio, si era discusso, no, qualcuno dice che siano anche in mezzo al mare dei data center, cioè molti stanno nascendo lungo i litorali, cioè lungo gli argini dei grandi fiumi americani. Perché ci sono appunto anche dei progetti, anche di Google, ma anche di altre aziende, per costruire dei data center che siano a largo. E qual è poi il vantaggio? Il vantaggio è nel fatto che c'è l'acqua e nel fatto che è un'area molto più diciamo ventilata, e soprattutto poi è una potenza di calcolo supplementare. Cioè, immagina che magari c'è una tempesta o magari c'è un uragano, questo tipo di data center si può spostare da una parte all'altra, e e quindi in questo modo fornisce, diciamo, un supporto. E quindi sono delle soluzioni che stanno diventando molto innovative. Il software a cui lavora il professor Cremonesi è anche interessante per un altro aspetto, perché in effetti tu pensa al data center come una sorta di libreria, appunto, dove ci sono i server, e quindi bisogna spostarli in modo una delle soluzioni è quella di, per esempio, di spostarli, oppure di creare degli accorgimenti per migliorare le possibilità di raffreddamento. E vorrei chiedere appunto al professore se c'è qualche cosa che viene in genere trascurata nei data center, cioè se c'è un tipo di, per esempio, la circolazione di aria è tenuta in considerazione, è studiata bene nei data center che avete analizzato, oppure invece è una cosa trascurata? Ma diciamo che i data center classici, quelli costruiti fino a 5 anni fa, adottano un sistema che viene chiamato del corridoio caldo-corridoio freddo, cioè i server sono disposti creando dei corridoi, e nei corridoi caldi i server proiettano l'aria calda che viene aspirata dal condizionatore, il condizionatore raffredda l'aria e viene immessa nel corridoio freddo. Questa soluzione, che si pensava fosse l'ottimo fino a pochi anni fa, invece si è scoperto con una serie di simulazioni che può essere migliorata ulteriormente facendo dei piccoli armadi che contengono un limitato numero di server che sono chiamati ad alta densità. Sono server molto molto potenti, server che in poco spazio racchiudono la potenza di calcolo che prima necessitava di centinaia di server, e quindi in questo armadio io metto questi server super potenti con il loro condizionatore, quindi una specie di scatola tutto compreso con server condizionatore, e così, e si è dimostrato che questa soluzione permette di risparmiare tantissimo sui consumi necessari per raffreddare questi server. Tra l'altro a me è capitato di entrare in uno o due data center di quelli importanti sia negli Stati Uniti che in Italia, sempre di entrare in una cattedrale, cioè perché sono ambienti completamente insonorizzati. La prima cosa che ti chiede è che cosa c'è lì dentro, perché vedi solo le lucine, sai che dentro possono passare dai conti correnti di Luca dello Iacofo alle carte di credito, a informazioni fondamentali sui grandi segreti d'Italia, però sono completamente blindati a compartimento stagno, cioè addirittura si è ragionato di togliere l'aria lì dentro, cioè, tra le varie ipotesi. Nova Lab 24. 16:47, Luca Tremolada, Luca dello Iacofo, siamo come il professor Cremonesi, ci stavamo anche discutendo durante il traffico dell'importanza strategica di questi luoghi, dei data center, nel senso che un domani parte del terrorismo potrebbe essere indirizzata a colpire determinati data center per oscurare non solo zone di internet, ma anche magari il potere informativo di alcune nazioni. Anche ad esempio si pensi solo alla telefonia, una nazione senza servizi di telefonia è una nazione ferma, cieca e sorda, e sicuramente questo è uno dei servizi più critici che può essere attaccato da un attacco terroristico. Sì, tra l'altro quando si ragionava su Google ragionavamo sempre di un'azienda privata, perché poi queste grandi multinazionali che hanno questi dati, poi come anche per una banca del resto, come un grande operatore di telefonia, non so, cioè da un certo punto di vista stanno diventando sempre più vulnerabili le nazioni, i paesi e i patrimoni. Magari è anche un po' tutto interconnesso, cioè mentre prima i confini tra le singole nazioni erano molto più stabili, molto più chiari, in effetti adesso con internet è tutto collegato e quindi le conseguenze poi si ripercuotono magari su tutti. Battito di ali di farfalla, no? Comunque torniamo sul tema, per cui ritorniamo all'aspetto ambientale dei server dell'informatica e ascoltiamo la scheda di Luca dello Iacofo. L'Oro Blu contribuisce alla sostenibilità ambientale. Un centro dati sperimentale progettato da Eni utilizza le strutture di una centrale elettrica e di una vicina raffineria per ridurre i consumi. L'acqua per il raffreddamento naturale viene aspirata da una falda e l'aria per la ventilazione forzata arriva dalle torri di estrazione alte 40 metri. Ma altre iniziative innovative sono in fase di sviluppo. Nei sotterranei di una cattedrale di Helsinki è in funzione un data center con un sistema idrico all'avanguardia. Può raffreddare le infrastrutture informatiche e accumulare calore per la climatizzazione degli edifici. È in grado di rifornire di acqua calda fino a 500 abitazioni. Negli Stati Uniti, l'azienda IO Data Centers costruirà un impianto per server con il tetto ricoperto da pannelli fotovoltaici. L'obiettivo è di ridurre le spese in orari in cui i costi sono più elevati. Durante la notte, poi, il ghiaccio raccolto è impiegato per raffreddare l'edificio. Sì, tra l'altro, cioè, il versante innovativo è quello più interessante. Ora, dalle cose piccole, io vedevo, so che esiste un'applicazione che si chiama iRiscaldino o Riscaldino per iPhone, dove praticamente cosa fa? Metti la mano sul telefono e te la scalda. È una stupidata, chiaramente, però è interessante. Erano arrivate anche le prime USB, quelle che ti scaldavano USB che si attaccano al computer e ti scaldano la tazza di caffè piuttosto che il tè. C'è uno studio, o quantomeno c'è una riflessione per cercare di trasformare questi data center in strumenti per abbiamo visto riscaldare l'acqua, però insomma per dare un contributo all'energia, all'impianto energetico di una, non dico di una nazione, ma di una città, di un comune, di un quartiere. Sì, sì, sicuramente il data center producendo calore può essere utilizzato per far girare delle turbine che quindi producono energia. Il calore di un data center non è così intenso come può essere quello di una centrale termica, quindi bisogna usare delle turbine particolari che sono chiamate a bassa entalpia, diciamo una tecnologia che non è molto, molto sviluppata perché non ha un'efficienza molto elevata, ma dato che questo calore viene prodotto comunque, anche se lo trasformano in energia elettrica con una bassa efficienza, fa niente, nel senso che comunque energia elettrica che altrimenti non avrei ottenuto. E quindi è un modo di trasformare quello che è un rifiuto, il calore del server, in un valore aggiunto, in qualcosa che poi può essere utile in un altro processo produttivo. Assolutamente sì. Piuttosto che, ad esempio, ci sono progetti che prevedono di utilizzare nelle giornate invernali il calore del data center per riscaldare degli uffici. È un po' come le centrali termiche, la cogenerazione, cose di questo tipo. Ecco, abbiamo visto anche che in questo senso l'acqua sta giocando anche un ruolo interessante nei progetti all'avanguardia. C'è il caso appunto di cui abbiamo parlato prima, che è quello lì di Google con i data center sull'acqua, ma c'è anche il caso della Finlandia e quindi poi della cogenerazione in un certo senso, anche se improprio il termine nel caso dei server. C'è anche poi il caso appunto di cui abbiamo visto dell'ENI e del progetto che poi è legato alla raffineria e all'utilizzo quindi di acqua di falda. Sì, esatto. Il progetto dell'ENI si prevede di usare acqua di faglia come uno dei meccanismi per raffreddare il data center. L'altro meccanismo interessante è quello di usare delle ciminiere, cioè anziché fare delle ventole che smuovono l'aria, aspirano l'aria calda dal data center, la ventola deve girare e consuma energia. L'idea è di fare la ciminiera, un po' come il vecchio camino, col tiraggio che aspira l'aria calda, la toglie dal data center. Quindi sono delle soluzioni veramente innovative che cercano di ridurre gli sprechi il più possibile. L'obiettivo è quello di passare da dei data center che hanno un'efficienza pari a 3, cioè per ogni kilowatt che io utilizzo effettivamente ne devo inserire in realtà 3, quindi 2 kilowatt vanno sprecati, a data center green, veramente green, che hanno un'efficienza di 1,5, cioè per un kilowatt che io uso ne spreco solo mezzo, insomma. E quanto è lontano questo obiettivo? Nella maggior parte dei casi, ecco. Diciamo un data center attuale ha un'efficienza, un data center abbastanza moderno ha un'efficienza pari a 2. Data center nuovo costruito ai giorni d'oggi che ottenga un'efficienza pari a 1,5 è considerato un buon traguardo. Quindi ci sarà un giorno, questa è una stupidata che sto dicendo, ma per asciugare andremo a letto col portatile per scaldare sotto le lenzuola, l'ho detta. Io ringrazio Luca Dello Jacopo e ringrazio il professore Paolo Cremonesi. L'appuntamento è per domani alle 16:30, sempre Dello Jacopo, ci occuperemo di riciclo e poi anche di inquinamento. A domani.